Capitolo 26 Si tirano a sorte i portinai del Tempio, e qual porta debba custodire ciascuna famiglia, e lo stesso di quelli, che debbono custodire i tesori, e i vasi sacri. Le classi dei portinai furon queste, della casa di Cor, Meselemia figliuolo di Cor, dei figliuoli di Asaf, figliuoli di Meselemia, Zasharia primogenito, secondo Yediel, terzo Zabadia, quarto Yatanael, quinto Elam, Jonan sesto, Elionai settimo. Figliuoli di Obededom, Semeia primogenito, secondo Jozabad, terzo A, Sashar quarto, Natanael quinto, Ammiel sesto, settimo Issachar, ottavo Follati, perocché Obededom fu benedetto dal Signore. E Semei suo figliuolo ebbe dei figliuoli capi di loro famiglie, ed erano uomini fortissimi. Figliuoli di Semeia, Otni, e Rafael, e Obed, e Zabad, e i suoi fratelli uomini fortissimi, ed anche Elio, e Samachia. Tutti questi erano della famiglia di Obededom, e Lino, e figliuoli, e fratelli loro, uomini di gran robustezza per loro ministero. 62 Della casa di Obededom. I figliuoli di Meselemia, e i loro fratelli uomini fortissimi, 18. Di Osa, cioè della stirpe di Merari, Semeri fu capo di una banda, perocché suo padre non aveva il primogenito, e a lui aveva dato perciò il primo luogo, secondo Elcia, terzo tabella, Zasharia quarto. Tutti questi figliuoli di Uosa insieme con loro fratelli erano 13. A questi fu distribuito l'ufficio di portinai in tal maniera, che i capi delle guardie, come anche i loro fratelli servivano sempre nella casa del Signore. Per ciascheduna dunque delle porte furori tirate egualmente a sorte le famiglie senza distinzione di piccolo o di grande. Or la porta d'Oriente toccò a Selemia, e a Zasharia suo figliuolo, uomo prudentissimo e intelligente, toccò a sorte quella di Settentrione. Ed ad Obededom, e a suoi figliuoli quella di Mezzodì, nella qual parte della casa era il consiglio dei signori. Sefim, e Osa ad occidente presso la porta, che mena alla strada della salita, una guardia di rimpetto all'altra guardia. Alla porta d'oriente 6 leviti, e a quella di settentrione 4 ogni dì, e a mezzogiorno parimente 4 ogni dì, e dov'era il consiglio, 2 alla volta. E alle celle dei portinai ad occidente 4 sulla strada. 2 per volta alle celle. Ecco come fu spartita la custodia delle porte ai figliuoli di Cor, e di Merari. Achias poi aveva la custodia dei tesori della casa del Signore, e dei vasi sagri. Figliuoli di Ledan, figliuolo di Gersonni, di Ledan figliuolo di Gersonni vengono questi capi di famiglie, Geieli. I figliuoli di Geieli, Zatan, e Gioel suoi fratelli custodi dei tesori della casa del Signore, insieme con quelli delle famiglie di Amram, di Isar, di Ebron, e di Uzziel. E Subael figliuolo di Gersom, figliuolo di Mosè, capo dei tesorieri. Ed Eliezer suo fratello, di cui fu figliuolo Rabia, e di questo Isaia, e di questo fu figliuolo Joram, di cui fu figliuolo Zecri, e di questo Selemit. Lo stesso Selemit, e i suoi fratelli avevano la custodia dei tesori delle cose sante consacrate dal re David, e dai principi delle famiglie, e dai tribuni, e dai centurioni, e dagli altri capi dell'esercito, cioè delle cose predate, e delle spoglie prese in guerra. E consacrate per il mantenimento del Tempio del Signore, e dei suoi utensili. Or tutte queste cose erano state consacrate da Samuele profeta, da Saul figliuolo di Cis, e da Abner figliuolo di Ner, e da Joab figliuolo di Sarvia. Tutti quelli che ne facevano offerta, li mettevano nelle mani di Selemit, e dei suoi fratelli. I discendenti di Zara avevano per loro capo Shonenia con suoi figliuoli, e presiedevano alle cose di fuori concernenti Israele, all'instruire, e al giudicare. Asabbia della famiglia degli Ebroniti, e i suoi fratelli, in numero di 1700, avevano ispezione sopra Israele di là dal Giordano verso Ponente per tutto quello che riguardava le cose del Signore, e il servizio del re. Geria fu capo degli Ebroniti divisi nelle loro famiglie, e consorterie. L'anno 40 di Davide ne fu fatto il censo in Jazer di Galaad, e di questi uomini fortissimi, e dei loro fratelli nel vigor dell'età si trovarono 2700 capi di famiglie. E Davide re diede loro la soprintendenza sopra i Rubbelliti, e i Gadditi, e la mezza tribù di Manasse per tutto quello che concerneva il servizio di Dio, e quello del re. Note, le classi dei portinai e i leviti destinati a custodire le porte della casa del Signore e i tesori e le guardarobbe furono presi dalle famiglie di Core e di Merari, e furono divisi in 24 classi con 4 capi, i quali risiedevano sempre a Gerusalemme, e ognuno dei quali aveva sotto di sé un numero considerabile di portinai. Questi portinai servivano armati, onde la loro funzione era militare, e sono perciò chiamati uomini fortissimi, uomini di valore. I 4 capi di questa elezione, secondo il numero delle porte del Tempio, furono Selemia, Zasharia, Obededom e Zefim con Osa, figliuolo di Gore, dei figliuoli di Asaf. Core era della famiglia di Caat, ma Selemia era di questa famiglia e del ramo di questa famiglia, che aveva per autore Asaf, ossia Abiasab nominato di sopra, cap. V. 2 punti Obededon fu benedetto dal Signore per aver dato ricetta all'arco. Reg. V. 2. La fecondità si avea per gran benedizione. 2 punti e i loro fratelli punto i loro parenti. I figliuoli di Meselemia erano 7 v. 2 punti suo padre non avea il primogenito, ec. Non poteva dare per tale ufficio il suo primogenito, che non era idoneo, perché di debole complessione, o per altro difetto. 2 punti a Selemia. Detto Maselemia, v. 2 punti della qual parte della casa era il consiglio. La sala, dove si adunavano a consiglio i signori. Alcuni intendono la sala del Sinedrio. 2 punti presso la porta, che mena alla strada della salita. Alla strada, per cui dal palazzo del re si sale al tempio. Vedi. Reg. X. 12. Una guardia di rimpetto all'altra guardia. Sembra doversi intendere che questa porta avesse doppia guardia, e può concepirsi che l'una guardia stesse alla porta del tempio, l'altra all'infilatura della salita, che menava dal palazzo del re al tempio. 2 punti alla porta d'oriente sui leviti. Ella era la più frequentata. 2 punti su Bael figliuolo di Gersom. Dei posteri di Gersom.